Dopo aver girato per le chiese e per i palazzi, Corinna condusse Osvaldo in Villa Mellini, giardino solitario e col solo ornamento di alberi magnifici. Si vede di là in lontananza la catena degli Appennini. La trasparenza dell'aria colorisce quelle montagne, le avvicina e le disegna in maniera veramente pittoresca. Osvaldo e Corinna si fermarono in quel sito qualche tempo per gustare la vaghezza del cielo e la tranquillità della natura. Non si può avere idea di questa tranquillità singolare quando non abbiamo soggiornato nelle contrade meridionali. In giorno caldo non si sente spirare il più lieve soffio di vento, i più deboli fili di erba sono di una perfetta immobilità. Gli animali medesimi partecipano della indolenza ispirata dal bel tempo. Sul mezzogiorno voi non sentite il ronzio delle mosche, né lo strepito delle cicale, né il canto degli uccelli. Nessuna cosa si affatica con movimenti inutili e passeggeri. Tutto dorme fino all'istante in cui le procelle o le passioni risvegliano la natura energica che sorge con impetuosità dal suo profondo riposo. Non trovate voi, disse Corinna, nel contemplare la campagna di cui erano circondati, che la natura in Italia fa meditare più che in qualunque altra parte? Si direbbe che qua essa è più in consorzio con l'uomo e che il creatore se ne serva come di un linguaggio tra lui e la creatura. Senza dubbio, riprese Osvaldo, io pure la penso così, ma chissà che non sia la tenerezza profonda che voi eccitate nel mio cuore, ciò che mi rende sensibile a tutto quanto io vedo. Voi mi rivelate i pensieri e gli affetti che gli oggetti esterni possono far nascere. Io non vivevo che nel mio cuore. Voi avete risvegliato la mia immaginazione. Ma questa magia dell'universo che mi insegnaste a conoscere nulla mi offrirà però mai di più bello delle vostre occhiate, né di più commovente della vostra voce. Possa tale sentimento che vi ispiro oggi, rispose Corinna, durare quanto la mia vita, o almeno non possa la mia vita durare più di esso. I due terminarono il loro viaggio di Roma con la Villa Borghese, quello di tutti i giardini e di tutti i palazzi romani in cui sono riuniti con maggior gusto e magnificenza tutte le pompe della natura e delle arti. Vi si vedono alberi di ogni specie, acque sontuose, una collezione incredibile di statue, di vasi, di sarcofagi antichi si mischia con la giovenile freschezza della natura del sud. Qui sembra rivivere la mitologia degli antichi. Le naiadi sono collocate sulla riva delle onde, le ninfe nei boschi degni di loro, le tombe fra le ombre degli Elisi, la statua di Esculapio è nel mezzo di un'isoletta, quella di Venere sembra uscire dalle acque. Ovidio e Virgilio potrebbero passeggiare in questo bel luogo e credersi ancora nel secolo di Augusto. I capolavori della scultura che racchiude il palazzo gli danno una magnificenza sempre nuova. Si scorge da lontano attraverso gli alberi la città di Roma e San Pietro e la campagna e i lunghi archi avanzi degli acquedotti che trasportavano le sorgenti delle montagne nell'antica Roma. Tutto è là per il pensiero e l'immaginazione, per l'estasi. Le sensazioni, le più pure, si confondono coi piaceri dell'anima e danno l'idea di una compiuta felicità. Ma quando si domanda il perché non sia abitato questo soggiorno incantatore, vi si risponde che la mal d'aria non permette il dimorarvi nell'estate. Questa malaria fa, per così dire, l'assedio di Roma. Si avanza ogni anno qualche passo di più e forza ad abbandonare in sua balia le più deliziose abitazioni. Senza dubbio, la privazione degli alberi nella campagna che accerchia la città ne è una delle cause, ed è forse per questo che gli antichi romani avevano consacrato i boschi alle dee, onde farli rispettare dal popolo. Presentemente sono state abbattute innumerevoli foreste. Potrebbero mai, infatti, esistere ai nostri tempi luoghi tanto santificati da poter trattenere l'avidità dal devastarli? La malaria è il flagello degli abitanti di Roma e minaccia la città di rimanere interamente spopolata. Ma ciò forse accresce anche l'effetto che producono i superbi giardini che si vedono nel recinto di Roma. La maligna influenza non si fa sentire per alcun segno esteriore. Voi respirate un'aria che sembra pura e che è gradevolissima. La terra è ridente, fertile, deliziosa freschezza vi refrigera la sera, dopo i calori infiammati del giorno, e tutto questo è la morte. Io amo, diceva ad Osvaldo Corinna, questo rischio misterioso, invisibile, questo rischio sotto la forma delle impressioni le più dolci. Se la morte non è, come io credo, che una chiamata a più avventurosa esistenza, perché mai il profumo dei fiori, l'ombra dei begli alberi, il soffio rinfrescante della sera non sarebbero incaricati di portarcene qualche novella? Il governo deve vegliare indubitatamente sulla conservazione della vita umana, ma la natura ha dei segreti che la mia immaginazione solo può investigare, e io capisco facilmente che gli abitanti e i forestieri non si disgustino di Roma per il genere del pericolo cui si va incontro nel decorrere delle più belle stagioni dell'anno. Libro sesto. Costumi e indole degli italiani. Capitolo primo. La irresoluzione del carattere di Osvaldo, aumentata dalle sue sventure, lo spingeva a temere di tutte le determinazioni irrevocabili. Egli non aveva ardito nemmeno nella sua incertezza di domandare a Corinna il segreto del suo nome e della sua sorte, e nonostante ciò, il suo amore per lei acquistava ogni giorno nuove forze. Non la guardava mai senza emozione. Egli poteva appena nella conversazione allontanarsi da lei, anche per un momento, dal posto in cui ella era seduta, non diceva parola che egli non sentisse e non aveva istante di tristezza o di gioia il cui riflesso non si dipingesse sulla sua propria fisionomia. Ma per quanto ammirasse, per quanto amasse Corinna, rifletteva sempre quanto tale donna poco si confacesse col sistema di vivere degli inglesi e quanto diversificava dalla idea che si era formato suo padre di colei che egli conveniva sposare, e ciò che diceva a Corinna partecipava sempre del turbamento e della soggezione che queste riflessioni facevano nascere in lui. Corinna se ne accorgeva benissimo, ma le sarebbe costato tanto il troncare ogni legame con Lord Nelvil che ella medesima si adattava a non far nascere tra loro una decisiva spiegazione. E siccome per carattere ella, come suol dirsi, viveva alla giornata, così era felice del presente, comunque si fosse, quantunque non potesse sapere ciò che sarebbe nato in seguito. Ella si era divisa affatto da tutti per consacrarsi al suo sentimento per Osvaldo, ma alla fine, offesa dal suo silenzio sull'avvenire, si risolse di accettare un invito per una festa da ballo dove era ella ardentemente desiderata. Non vi è cosa più indifferente in Roma di quella di lasciare una conversazione e di ricomparirvi a vicenda, secondo che ci va a genio, e questo il paese in cui uno si occupi meno di ciò che si chiama altrove pettegolezzo. Ciascuno fa ciò che vuole, senza che nessun altro se ne informi, fuorché nel caso in cui si incontri negli altri un ostacolo al suo amore o alla sua ambizione. I romani non si inquietano più del contegno dei loro compatrioti, di quello che si inquietino della condotta degli stranieri, che passano e ripassano per la loro città, punto di ritrovo degli europei. Quando Lord Nelvil seppe che Corinna interveniva al festino, si fece di cattivo umore. Gli era sembrato di vedere in lei da qualche tempo malinconica disposizione che simpatizzava con la sua. E tutto a un tratto ella gli comparve vivamente occupata del ballo, di quel talento in cui primeggiava, e la sua immaginazione pareva avvivata dalla prospettiva di cotale festa. Corinna non era frivola persona, ma ella si sentiva ogni giorno più oppressa dal suo amore per Osvaldo e voleva tentare di indebolirne la forza. Ella sapeva per esperienza che la riflessione e i sacrifici hanno sui caratteri trasportati dalla passione minor potere delle distrazioni, ed ella pensava che la ragione non consiste nel trionfare di se stessi secondo le regole, ma come si può. Occorre, ella diceva a Lord Nelvil che le rimproverava la sua risoluzione, occorre pure che io sappia se non esiste più nel mondo altri che voi che posso occupare la mia vita, se ciò che mi piaceva una volta può ricrearmi tuttora, se finalmente il sentimento che mi ispirate deve assorbire ogni altro interesse e ogni altra idea. Voi volete dunque cessare di amarmi, riprese Osvaldo. Oh no, riprese Corinna, ma soltanto nella via domestica può essere dolce e sentirsi signoreggiata in tal modo da una sola affezione. Io che ho bisogno dei miei talenti, del mio spirito, della mia immaginazione per sostenere il lustro della vita che ho adottata, sento che mi fa male e molto male l'amarvi come vi amo. Voi non mi sacrifichereste dunque, le replicò Osvaldo, questi omaggi, questa gloria? Che vi importa, interruppe Corinna, il sapere se li sacrificherei? Non bisogna, già che non siamo destinati l'uno all'altra, seccare per sempre a mio pro quella sorgente di felicità di cui debbo contentarmi. Lord Nelvil non rispose parola, poiché sarebbe stato necessario nell'esprimere il suo sentimento dir pure quale disegno gli ispirava questo sentimento e il suo cuore ancora lo ignorava. Tacque dunque, sospirando, e accompagnò Corinna alla festa da ballo, sebbene gli costasse molta pena l'andarvi. Era la prima volta, dopo le sue disgrazie, che egli interveniva in grande assemblea e il tumulto di una festa gli cagionò tale impressione di tristezza che si trattenne lungo tempo in una sala contigua a quella del ballo, con la testa appoggiata alle mani e non cercando neppure di veder ballare Corinna. Egli ascoltava la musica della danza, che come tutte le altre musiche rende pensierosi, benché non sembri destinata che alla gioia. E giunse il conte d'Erfeuil, incantato all'estremo di un ballo, di un'assemblea, finalmente di una conversione, no, di una conversazione numerosa che gli richiamava un poco alla memoria la Francia. Io ho fatto ciò che ho potuto, disse a Lord Nelvil, per interessarmi in qualche guisa delle rovine di cui in Roma si parla tanto. Non vi vego nulla di bello, è un vero pregiudizio l'ammirazione per quei rottami ricoperti di rovi. Io ne dirò il mio parere quando ritornerò da Parigi, perché è tempo una volta che questo prestigio dell'Italia finisca. Non vi è monumento in Europa che sussista attualmente nel suo intero, il quale non valga assai più di questi tronchi di colonne, di questi bassorilievi anneriti dal tempo e che non si possono ammirare se non a forza di erudizione. Un piacere che occorre comprarsi con tanti studi non mi pare poi molto brioso in sé medesimo, giacché per rimanere incantato dell'opera di Parigi nessuno ha bisogno di impallidire sopra i libri. Lord Nelvil nulla rispose. Il conte d'Erfeuil lo interrogò di nuovo sull'impressione che Roma aveva prodotto su lui. In mezzo ai balli, disse Osvaldo, non è a proposito il momento per parlare sul serio e voi sapete che non so parlare diversamente. Come volete, riprese il conte d'Erfeuil, io sono più allegro di voi, ne convengo, ma chissà che io non sia anche più saggio. Credetemelo pure, vi è molta filosofia nella mia apparente leggerezza. La vita si deve prendere così. Voi avete forse ragione, replicò Osvaldo, ma siete in tal guisa per natura e non già per riflessione, ed ecco il perché la vostra maniera di esistere non conviene che a voi. Il conte d'Erfeuil sentì nominare Corinna nella sala da ballo e vi entrò subito per sapere di che si trattava. Lord Nelvil si avanzò fino alla porta e vide il principe di Amalfi, napoletano, della più bella figura, che pregava Corinna a ballare con lui la tarantella, danza di Napoli piena di grazia e affatto originale. Gli amici di Corinna la richiedevano pure. E l'accettò senza farsi pregare, il che fece assai meravigliare il conte d'Erfeuil, assuefatto com'era, al negarsi prima di procedere al consenso. Ma in Italia non si conosce questo genere di grazia e ciascuno crede con estrema naturalezza di piacere di più alla società, sollecitandosi a fare ciò che gli viene domandato. Corinna avrebbe inventato questa maniera ingenua se non fosse stata di già in uso. L'abito che si era messa per il ballo era elegante, leggero, i suoi capelli erano accolti in una rete di seta all'italiana e i suoi occhi esprimevano vivace piacere che la rendeva sempre più seducente. Osvaldo ne rimase turbato. Egli combatteva contro sé medesimo, si adirava di essere innamorato di attrattive delle quali doveva lagnarsi, poiché Corinna, lungi dal pensare a piacergli, si mostrava altrui con altri tanto meravigliosa quasi per sottrarsi al suo dominio. Ma chi può resistere alle seduzioni della grazia? Fosse ella stata anche sprezzante, ella sarebbe stata tuttavia onnipotente. E ciò non era sicuramente per la disposizione di Corinna. A un tratto scorse Lord Nelvil e diventò rossa, e nel guardarlo i suoi occhi erano pieni di dolcezza che incantava. Il principe di Amalfi si accompagnava nel ballo con delle nacchere. Corinna, prima di cominciare, fece con ambedue le mani un saluto pieno di grazie all'assemblea e, volgendosi lievemente sopra se stessa, prese il cembalo che le porgeva il principe di Amalfi. Ella si mise a danzare, percuotendo l'aria con il suo cembalo, e tutti i suoi movimenti avevano una destrezza, una grazia, un miscuglio di atti che poteva dare l'idea della possanza che le bayadere esercitano sull'immaginazione degli indiani, quando esse sono, per dir così, poete nei loro balli. Quando esse esprimono tanti sentimenti diversi coi passi caratterizzati e coi quadri incantatori che offrono allo sguardo. Corinna conosceva così bene tutte le attitudini che rappresentano i pittori e gli scultori antichi che, con agilissimo moto delle sue braccia, ponendo il suo cembalo ora al di sopra della testa, ora spingendoselo innanzi con una delle mani, mentre con l'altra toccava tutti i suoi sonagli con incredibile rapidità, faceva ricordare le ballerine di Ercolano e faceva nascere successivamente una folla di idee nuove per il disegno e per la pittura. Non era questo niente affatto la danza francese, sì così notevole per l'eleganza e per la difficoltà dei passi. Era un talento che si accostava assai più all'immaginazione e al sentimento. Il carattere della musica veniva espresso a vicenda con la precisione e con la mollezza dei movimenti. Corinna, ballando, faceva passare nell'anima degli spettatori ciò che ella provava in sé come se avesse improvvisato, come se avesse suonato la lira o disegnato qualche figura. Tutto era linguaggio per lei. I suonatori, nel riguardarla, si animavano a far sentire meglio il genio della loro arte e non so qual gioia appassionata, qual sensibilità di immaginazione elettrizzasse simultaneamente tutti i testimoni di questa danza magica e li trasportasse in una esistenza ideale dove si sogna felicità che non è di questo mondo. Vi è un punto in questo ballo napoletano in cui la donna si pone in ginocchio, mentre l'uomo gira intorno a lei, non come padrone, ma come vincitore. Qual era mai in quell'istante la leggiadria e la dignità di Corinna, come in ginocchio ella compariva sovrana, e quando si rialzò, facendo rimbombare il suono del suo strumento, del suo cembalo aereo, ella pareva animata da un entusiasmo di vita, di giovinezza e di beltà che doveva persuadere che essa non aveva bisogno di alcuno per essere felice. Ahimè, non era la cosa come appariva, ma Osvaldo la temeva e sospirava nell'ammirare Corinna come se ciascuna delle sue vittorie la dovesse separare da lui. Sul finire del ballo, l'uomo, esso pure, si getta in ginocchio e allora è la donna che danza intorno a lui. Corinna in quel momento superò anche se stessa, se era possibile. La sua corsa era così leggera, percorrendo due o tre volte il cerchio medesimo, che i suoi piedi calzati di coturno volavano sul solaio con la rapidità del lampo. E quando ella alzò una delle mani per agitare il suo cembalo e con l'altra fece cenno al principe di Amalfi di alzarsi in piedi, tutti gli uomini erano allettati a mettersi in ginocchio come lui, tutti ad eccezione di Lord Nelvil, che si ritirò alcuni passi indietro, e del conte d'Erfel, che fece alcuni passi innanzi per complimentare Corinna. Quanto agli italiani che si trovavano là, niente pensavano ad esternare il loro entusiasmo. Vi si davano in preda perché lo provavano. Non sono questi uomini assuefatti abbastanza alla società e all'amor proprio che essa risveglia per occuparsi dell'effetto che l'uno o l'altro producono. Essi non lasciano mai che la vanità li travi dal piacere nella strada che fanno al loro scopo. Corinna era incantata della sua riuscita e ringraziava tutti con grazia piena di semplicità. Ella era contenta del suo trionfo e lasciava trasparire questo suo giubilo da buona fanciulla, se uno si può esprimere in questo modo. Ma ciò che la occupava specialmente era il desiderio di attraversare la folla per giungere fino alla porta alla quale Osvaldo si era appoggiato. Ella vi giunse al fine e si soffermò un istante per aspettare da lui una qualche parola. «Corinna», finalmente le disse, sforzandosi di nascondere il suo turbamento, il suo incanto e la sua pena. «Corinna, eccovi degli omaggi in gran coppia, eccovi dei gran trionfi». Ma in mezzo a questi adoratori così riscaldati Vi è mai un amico coraggioso e sicuro? Vi è un protettore finché è viva? E il vano tumulto degli applausi dovrebbe bastare per un'anima come la vostra? Capitolo 2. La folla impedì a Corinna di rispondere a Lord Nelville. Si andava a cena e ogni cavalier servente si dava premura di sedere accanto alla sua bella. Sopraggiunse una forestiera e, non essendovi più posti, nessun uomo, ad eccezione di Lord Nelville e del conte d'Erfeil, le offrì il proprio. Il non essersi alzato alcun romano non era l'effetto della malcreanza o dell'egoismo, ma era bensì l'idea che i gran signori di Roma hanno dell'onore e del dovere, vale a dire di non allontanarsi un passo né un istante dalla loro dama. Alcuni, non avendo potuto porsi a sedere, se ne stavano dietro alla sedia delle loro belle, pronti a servirle ad ogni minimo cenno. Le dame non parlavano che ai loro cavalieri. I forestieri passeggiavano intorno, in questo circolo, dove nessuno aveva nulla da dire loro, poiché le donne in Italia non sanno che cosa sia la civetteria, che cosa sia in amore un successo dell'amor proprio. Esse non hanno smania, fuorché di piacere a colui che amano. Non vi è punto di seduzione di spirito avanti quella del cuore e degli occhi. Gli inizi più rapidi sono seguiti qualche volta da sincera consacrazione di se stesse e anche da lunghissima costanza. L'infedeltà in Italia è biasimata più severamente nell'uomo che nella donna. Tre o quattro uomini sotto diversi titoli corteggiano la stessa donna che se li conduce appresso senza darsi qualche volta nemmeno la pena di dire il loro nome al padrone di casa che li riceve. Uno è il preferito, l'altro aspira ad esserlo, un terzo si chiama il patito. Questo qui è trascurato, ma gli si permette tuttavia di fare il servizio di adoratore. E tutti questi rivali vivono tranquillamente tutti insieme. La gente del popolo solamente ha conservato il costume delle stilettate. Vi è in questo paese un miscuglio bizzarro di semplicità e di corruzione, di dissimulazione e di verità, di bonarietà e di vendetta, di debolezza e di forza che si spiega per costante osservazione. Le buone qualità derivano dal nulla farsi per la vanità e le cattive dal fare troppo per interesse, sia che questo interesse concerna l'amore, l'ambizione o la fortuna. Le differenze di grado fanno in genere poco effetto in Italia e non viene dalla filosofia, ma dalla felicità del carattere e dalla familiarità dei costumi, se sono poco suscettibili dei pregiudizi aristocratici. Siccome la società di nulla si costituisce giudice, così essa ammette tutto. Dopo cena, ciascuno si pose a giocare, alcune donne a giochi d'azzardo, altre al wish, per lo più taciturne. Non si sentiva pronunciare più parole in quella stanza poco fa cotanto numerosa. I popoli del mezzogiorno passano sovente dalla maggiore agitazione alla più profonda quiete, e uno parimenti dei chiaroscuri del loro carattere, la pigrizia unita all'attività la più infaticabile. Sono certi uomini in tutto che occorre guardarsi dal giudicare dal primo colpo d'occhio, poiché le doti come i difetti, i più opposti, si trovano in essi. Se voi li vedete prudenti in tale momento, può darsi che in un altro si mostrino i più audaci tra gli uomini. Se si sono indolenti è perché forse si riposano di aver agito o si preparano ad agire di nuovo. Lord Nelville aveva conservato amaro risentimento sulla scena del ballo. Egli credeva che gli italiani e la loro maniera spiritosa di esprimere l'entusiasmo avessero deviato da lui, almeno per un istante, l'interesse di Corinna e si sentiva perciò disgraziatissimo. Ma la sua alterezza lo consigliava a nasconderlo o a manifestarlo solamente col mostrare disprezzo per i suffragi che lusingavano la sua brillante amica. Gli si propose di giocare, ma egli rifiutò e Corinna gli fece cenno di venire a sedersi accanto a lei. Osvaldo era inquieto per timore di compromettere Corinna, passando in tale modo la serata solo con lei alla presenza di tutti. Oh, tranquillizzatevi su tal proposito, ella gli disse. Nessuno si occuperà di voi. Qui vi è l'uso di fare in società ciò che ci piace. Non c'è stabilita nessuna convenienza, non si esige neppure uno sguardo. Basta una gentilezza affettuosa. Nessuno vuole porsi scambievolmente in soggezione. Non è certamente questo un paese in cui sussista la libertà tale quale ve la figurate in Inghilterra, ma vi si gode di una perfetta indipendenza sociale. Vale a dire, riprese Osvaldo, che non c'è nessun rispetto dei costumi. Almeno, l'interruppe Corinna, non ci è ipocrisia. Il signore della Rochefoucauld ha detto: il minore dei difetti di donna galante è quello di essere tale. Infatti, di qualunque sorte siano i torti delle donne in Italia, esse non ricorrono mai alla menzogna. E se i doveri coniugali non sono avuti in pregio abbastanza, deriva ciò dal consenso dei due sposi. Non è la sincerità la causa di questa disinvoltura, rispose Osvaldo, ma bensì l'indifferenza per la pubblica opinione. Appena arrivato qua, io avevo una lettera commendatizia per una principessa, la diedi al mio servitore di piazza perché la recapitasse. Egli mi disse: Signore, in questo momento la vostra lettera nulla conta. La principessa non ammette nessuno. Ella è innamorata e l'essere suo di innamorata si pubblicava come qualunque altro avvenimento della sua vita. E oltre a ciò, tale vociferazione non viene scusata da straordinaria passione. Si succedono così fatte inclinazioni le une alle altre e si fanno note tutte nella stessa guisa. Le donne fanno così poco mistero su tale proposito che esse confessano le loro amicizie con minore difficoltà di quella che non avrebbero le nostre donne parlando dei loro sposi. Non si mescola in ciò alcun sentimento profondo e delicato. Ne viene da ciò che in una nazione che non pensa altro che ad amare non vi sia neppure un romanzo. L'amore vi è così rapido e così pubblico che non si presta a nessuna specie di sviluppo e che per dipingere veramente i costumi su tale particolare converrebbe cominciare e finire nella stessa pagina. Perdonatemi, Corinna, esclamò Lord Nelville, avvedendosi della pena che le faceva provare. Voi siete italiana, questa idea dovrebbe disarmarmi, ma una delle cagioni della vostra grazia incomparabile è la riunione di tutte le attrattive che caratterizzano le differenti nazioni. Io non so in quel paese voi siete stata educata, ma certamente voi non avete passato tutti i vostri giorni in Italia, forse anche in Inghilterra? Ah, Corinna, se questo fosse vero, come avreste potuto mai abbandonare quel santuario del pudore e della delicatezza per venire qua dove si conosce così male non solo la virtù, ma l'amore medesimo? Vi si respira con l'aria, ma penetra anche fino al cuore. Le poesie nelle quali l'amore fa tanta comparsa hanno molta grazia e molta immaginazione, sono ornate tutte di quadri brillanti, i cui colori sono vivacissimi e voluttuosi, ma dove troverete mai quel sentimento dolce e malinconico che ravviva la nostra poesia? Che potreste mai paragonare alla scena di Belvidera e del suo sposo nell'Otway, a Romeo nello Shakespeare? E infine, soprattutto, agli ammirabili versi di Thomson nel suo Canto della Primavera, quando dipinge con pennellate così nobili e sì commoventi la felicità dell'amore nel matrimonio. Vi è un tale matrimonio in Italia? E dove non c'è felicità domestica, può esistere mai l'amore? Non è la forse questa felicità lo scopo della passione del cuore, come il possesso è quello della passione dei sensi? Tutte le donne giovani e belle non si somigliano forse, se le prerogative dell'anima e dello spirito non fissano la preferenza? E queste prerogative che cosa mai fanno desiderare? Il matrimonio, vale a dire l'unione di tutti i sentimenti e di tutti i pensieri. L'amore illegittimo, quando sventuratamente esiste tra noi, è anche allora, se mi è permesso esprimermi così, un riflesso del matrimonio. Vi si cerca quell'intima felicità che non si è potuto gustare tra le pareti, e l'infedeltà stessa è per tale modo più morale in Inghilterra del matrimonio in Italia. Queste parole erano austere e se ferirono profondamente Corinna, che alzandosi subito con gli occhi pieni di lacrime uscì dalla stanza e se ne ritornò a casa immediatamente. Rincrebbe molto ad Osvaldo di aver offeso Corinna, ma l'avevano tradito le parole scappategli per una specie di irritazione, motivato dai successi che l'aveva riportato nel ballo. Le corse dietro a casa, ma ella rifiutò di parlargli. Poi vi ritornò, invano la mattina seguente, la sua porta era chiusa. Questo negarsi ripetuto di ricevere Lord Nelvil non era nel carattere di Corinna, ma ella era estremamente afflitta dell'opinione che gli aveva esternato sulle italiane, e anche questa opinione le imponeva la legge di nascondere in avvenire, se era possibile, il sentimento che la trasportava. Osvaldo, per parte sua, trovava che Corinna non agiva in tale circostanza con quella semplicità che le era naturale, e si confermava sempre più nel disgusto cagionatogli dal ballo, ed eccitava in se stesso quella disposizione che poteva lottare contro il sentimento da cui temeva fortemente di essere dominato. I suoi principi erano severi e il mistero che avvolgeva la vita passata di colei che lui amava gli cagionava fiero dolore. Le maniere di Corinna gli sembravano piene di vezzi, ma qualche volta un po' troppo animate dal desiderio di piacere a tutti. Trovava in lei molta nobiltà e riservatezza nei suoi discorsi e nel suo contegno, ma all'opposto troppa indulgenza nelle opinioni. Finalmente Osvaldo era un uomo sedotto, trasportato, ma che conservava dentro di sé un avversario che combatteva contro ciò che lui provava. Tale situazione conduce sovente all'amarezza, si è malcontenti di se stessi e degli altri, si soffre e si ha come una specie di bisogno di soffrire di più, o almeno di procurarsi una dichiarazione violenta che faccia trionfare completamente uno dei due sentimenti che lacerano il cuore. In questa disposizione, appunto, Lord Nelvil scrisse a Corinna. La sua lettera era amara e sconveniente, ne era persuaso, ma degli affetti confusi lo spingevano ad inviarla. Egli era tanto infelice nei suoi combattimenti che voleva ad ogni costo una qualsiasi fosse circostanza che potesse terminarli. Una voce a cui egli non prestava fede, ma che gli era stata riferita dal conte d'Erfeuil, contribuì forse ancora a rendere le sue espressioni più aspre. Si spargeva in Roma che Corinna avrebbe sposato il principe d'Amalfi. Osvaldo sapeva bene che non l'amava e doveva pensare che il ballo era la sola origine di questa nuova, ma egli si persuase che ella lo avesse ricevuto in casa la mattina dello stesso giorno in cui gli era stato escluso, e troppo orgoglioso per esprimere un sentimento di gelosia, soddisfece al suo segreto affanno, denigrando la nazione per la quale vedeva con tanta pena la predilezione di Corinna.